Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato all'incredibile vita di Roman Polanski. Per tutta la sua quarantennale carriera è sempre esistito un affascinante legame tra i film che girava ed i terribili eventi di cui è stato testimone. Quella di Roman Polanski è stata un'infanzia difficile, segnata dalla terribile persecuzione antisemita. Poi è arrivata la tragedia che ha coinvolto la moglie Sharon Tate, assassinata da parte di una setta di fanatici. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel domani alle 12.25. Roman Polanski nasce a Parigi il 18 agosto del 1933. Suo padre, Richard, un ebreo polacco, lavora lì quando incontra Bula Katz e se ne innamora. Gene Gutowski, amico e produttore. Suo padre era un uomo molto intelligente che fece un tragico errore. Era un manovale e decise di tornare in Polonia prima della guerra. Una decisione fatale. Nel 1940 i nazisti chiudono il ghetto ebraico di Cracovia e centinaia di famiglie vengono confinate in un quartiere minuscolo. La madre di Roman è tra le prime donne ad essere deportate. Roman fugge nella campagna dove viene raccolto da una famiglia di contadini poverissimi. In seguito torna nella città occupata dai nazisti dove riesce a sopravvivere lavorando attivamente nel mercato nero. Alla fine della guerra riesce a ritrovare suo padre, ma viene a sapere che la madre è morta ad Auschwitz. Roman non riesce a vivere insieme a suo padre. Se decideva di fare o non fare qualcosa, non c'era alcun modo per fargli cambiare idea. In pratica, Roman era completamente indipendente già a 14 anni e voleva fare l'attore. Roman inizia ad interpretare piccole parti per il teatro e per il cinema. Affascinato soprattutto da quest'ultimo, all'età di 22 anni, decide di iscriversi alla scuola statale di cinema di Vuč. I film comunisti dovrebbero esaltare i valori della classe proletaria, ma i cortometraggi di Polanski parlano di oscuri conflitti interiori, spesso a sfondo sessuale. Lo stile provocatorio e gli argomenti scelti dal giovane regista scandalizzano i suoi professori. Adam Hollander, compagno della scuola di cinema. Il suo obiettivo era catturare l'attenzione della gente. La creatività di coloro che scrivevano e dirigevano alla scuola di cinema era in gran parte subordinata alla capacità di aggirare le restrizioni del sistema. In quei giorni, tutto ciò che proveniva dall'Occidente aveva un enorme valore, soprattutto per noi ragazzi. Già allora Polanski combinava l'interesse per la storia e un eccezionale talento innato nel raccontarla, con l'abilità tecnica nell'usare il mezzo cinematografico per i suoi scopi. Riesce a dire con le immagini ciò che gli altri devono per forza raccontare a parole. Il lato più giocoso di Roman affiora in una bizzarra storia in cui due uomini emergono dal mare e scoprono i pericoli della civiltà. Egli stesso interpreta una parte, un giovane delinquente. Due uomini e un armadio viene ricevuto bene all'estero, vincendo il terzo premio all'Esposizione Universale del 1958 a Bruxelles. Tornato alla scuola di cinema, Polanski si innamora di una promettente attrice polacca, Basia Kwiatkowska. Riesce a coinvolgerla a partecipare al suo ultimo cortometraggio. Un'abitudine che ripeterà con tutte le donne più importanti della sua vita. Subito dopo le chiede anche di sposarla. E conseguito il diploma, gli sposini si trasferiscono a Parigi per inseguire i propri sogni nel mondo occidentale. Nonostante il successo dei suoi cortometraggi, Roman non riesce ad ottenere alcun ingaggio per un film vero e proprio. Così fa da manager alla moglie che diventa una star e che poco dopo lo lascia per un altro attore. A 28 anni Roman torna in Polonia. Determinato a girare un film, convince il governo a finanziare un suo progetto. Quando i funzionari vedono l'opera compiuta, la denunciano come decadente. Ma negli Stati Uniti Il coltello nell'acqua riceve una nomination agli Oscar come miglior film straniero. Nel 1964, Roman arriva quindi ad Hollywood per la prima volta. Partecipa alla cerimonia e capisce improvvisamente quale potrebbe essere il suo futuro. Il primo lungometraggio di Polanski riscuote quindi un grande successo internazionale. Ammaliato dalle prospettive di carriera in Occidente, Roman lascia definitivamente la Polonia e si stabilisce a Londra. Roman e l'aspirante sceneggiatore Gerard Brush hanno un'idea per un film horror e iniziano a scrivere insieme la sceneggiatura. Polanski controlla ogni dettaglio della produzione. Si occupa anche della pubblicità, incoraggiando Catherine Deneuve a posare nuda per Playboy. Mi disse che sarebbe stato importante per il film, per pubblicizzarne l'uscita. La produzione non aveva molti soldi e non avremmo avuto molta promozione. Lo feci, ma è una cosa di cui mi sono sempre pentita molto. Repulsione raccoglie critiche entusiaste e sconvolge il pubblico, non abituato ad assistere al cinema ad una simile espressione di violenza. Polanski e Brush iniziano subito a lavorare ad una nuova sceneggiatura, una bizzarra black comedy su una coppia infelicemente sposata che vive in un'isola remota. Un altro film a basso costo e un altro successo di critica. Quando non lavora, Polanski si gode la vita da scapolo brillante nella Swinging London. Mia Farrow, amica di Roman. È un uomo attraente sotto ogni aspetto. Ha una personalità ammaliante. Ha un grande senso dell'umorismo e ha un aspetto, un viso che molte donne trovano attraente. Nonostante questo, però, è sempre stato timido. Se avevamo una conversazione, distoglieva spesso lo sguardo e... insomma, era molto dolce. Nel 1966, mentre sviluppa l'idea per un horror comico, Roman incontra una giovane attrice e la scrittura come sua coprotagonista. Dopo aver girato Per favore non mordermi sul collo, Roman Polanski e Sharon Tate decidono di andare a vivere insieme. Ho sempre avuto l'impressione, e Roman avrà sicuramente da ridire, e forse si arrabbierà anche, ma ho avuto sempre l'impressione che Roman non stesse a proprio agio con le donne. Sharon, però, non aveva nulla di minaccioso, così si trovò benissimo con lei. Ancora una volta Roman chiede alla sua protagonista di posare nuda per Playboy in modo da promuovere il film. Dopo aver diretto 4 film in Europa, il regista polacco riceve la prima grossa offerta per lavorare in America. Nel 1967, insieme a Sharon, si trasferisce ad Hollywood. Robert Evans, produttore. Lo conoscevo e volevo fare qualcosa di inaspettato. Volevo produrre il suo primo lavoro in America. Lo studio non era così entusiasta, preferiva un americano per questo tipo di film. Rosemary's Baby è una delle produzioni più ambite di Hollywood. Roman deve adattare il bestseller che racconta di una giovane donna che dà alla luce il figlio del diavolo. Sin dalle prime fasi di produzione, il regista è in ritardo sulla tabella di marcia e i suoi oppositori alla Paramount vogliono scaricarlo. Non mi importava niente. Dissi loro, se cacciate Roman, me ne vado anch'io. Dopo aver visto i provini, la direzione dello studio torna sui suoi passi. Sul set, però, gli animi si scaldano. Roman fa infuriare John Cassavetes sostenendo che un uomo non può essere monogamo. Mia Farrow, amica di Roman. John andò su tutte le furie e disse, questo dimostra quanto poco sai delle donne. Credo che fosse sposato da circa 12 anni con sua moglie Jenna e disse, posso solo dirti che la trovo sempre più bella e più eccitante e la nostra relazione migliora ogni giorno che passa. Credo che fu l'unica volta in cui Roman non ebbe la risposta pronta. Tutti gli elementi del film lavorano insieme per creare magicamente un continuo senso di minaccia. Nel gennaio del 1968, Roman e Sharon si sposano a Londra. Il ricevimento si tiene al Playboy Club. Era così felice e cantava sempre. Era il periodo di quella canzone If You Go Down to San Francisco. Gli piaceva tanto, cantava sempre quella. Love gives you happiness. L'amore ti rende felice, ma dal momento che è destinato a finire, porta in sé il seme della tragedia. Volevo stare con lei. Eravamo innamorati. Non avrei voluto vivere con nessun'altra donna. Non fui mai fedele al 100%. Non ci provavo neanche. Sapevo che il matrimonio non mi avrebbe cambiato. Nel 1969, Roman Polanski e Sharon Tate sono considerati la coppia più felice di Hollywood. All'inizio Roman si chiede se un figlio non possa causare un addolcimento del suo stile, ma poi abbraccia con entusiasmo l'idea della paternità. La coppia si trasferisce in una zona appartata di Beverly Hills e si divide tra il lavoro in Europa e la preparazione della casa per il bambino in California. In luglio, Roman mette Sharon su una nave per l'America e le promette di raggiungerla a breve. Venerdì 8 agosto, Roman le promette di tornare a casa per il suo compleanno la settimana successiva. Sharon passa una serata tranquilla a casa con degli amici. Sharon ha ricevuto 16 coltellate. Roman torna in California in stato di shock. Lot of newsmen who for... Molti giornalisti, per motivi di fama personale, scrivono cose insopportabili e orribili su mia moglie. Tutti voi sapete quanto lei fosse bella. Più di una volta mi è capitato di leggere che veniva considerata una delle donne più belle al mondo, se non la più bella. Ma pochi di voi sanno quanto fosse buona. One of most beautiful, if not the most beautiful woman of the world. But only few of you know how good she was. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla vita del regista Roman Polanski. Dopo la cattura degli assassini della moglie Sharon Tate e di suo figlio, Roman non ha più alcun motivo per rimanere ad Hollywood. Per 2 anni avrà difficoltà a concentrarsi sul lavoro, ma nel 1971 inizia ad avere anche problemi economici. Chiede quindi agli amici di Playboy di finanziare il suo adattamento cinematografico del Macbeth di Shakespeare. Macbeth è il più violento di tutti i film da lui girati finora. Il pubblico si tiene alla larga dal dramma elisabettiano. Molti critici leggono il film come la risposta di Polanski agli assassini di Manson. A Hollywood, il capo della Paramount, Robert Evans, vuole che sia Roman a dirigere il nuovo film dello studio. Il regista accetta e a 40 anni torna nella città in cui sua moglie è stata uccisa 4 anni prima. Si mette al lavoro con lo scrittore Robert Towne sulla trama alquanto ingarbugliata di Chinatown. Los Angeles, 1937. Per quanto avessimo delle discussioni mentre lavoravamo, una volta che avevamo deciso sul modo di girare una scena, Roman la proteggeva meglio di qualunque altro regista. Non permetteva agli attori di pronunciare una sola sillaba fuori copione. Roman sceglie Faye Dunaway per interpretare la donna abusata. Dice che con il vestito anni 30 gli ricorda sua madre. Ancora Robert Towne. Un sacco di registi direbbero: non voglio che il protagonista passi tutto il film con un cerotto in faccia. Ma Roman fece proprio in modo che Jack avesse sempre il cerotto, perché ovvio, è questo che succede quando ti spaccano il naso. Ogni azione ha una conseguenza. Chinatown riceve 11 nomination agli Oscar. L'oscura visione di Roman Polanski ha dato vita ad un vero capolavoro. Dopo il trionfo di Chinatown, Roman Polanski vuole realizzare un altro film ad alto budget, ma tutti i suoi progetti hollywoodiani rimangono in fase di sviluppo. Intanto ritorna a Parigi per realizzare un film meno costoso e più personale. Richard Silbert, amico e scenografo. Roman fece un ottimo lavoro con L'inquilino del piano di sotto, in cui lavorò benissimo sia come regista che come protagonista. Ma perché lo fece? Insomma, chi vuole stare seduto a vedere la storia di un tizio che impazzisce e diventa un maniaco travestito? Dopo lo scarso successo dell'Inquilino del piano di sotto, Polanski si prende una pausa dalle pressioni del cinema. Accetta l'incarico di fotografare l'allora quindicenne Nastassia Kinski per l'edizione francese di Vogue. I due hanno anche una breve relazione. Dopo il lavoro a Parigi per Vogue, Polanski vola a Los Angeles per fotografare giovani modelle di tutto il mondo. Aveva anche questo passatempo, un gioco. Ti faccio delle belle fotografie e poi facciamo un articolo per Vogue. Proprio una brutta faccenda. A Los Angeles gli viene presentata la 13enne Samantha Gailey e gli viene chiesto di fotografare l'aspirante modella a casa sua. Durante la seduta, Roman le chiede di togliersi la maglietta. Nella mia mente di tredicenne pensai, evidentemente quando sei una modella è questo quello che ti chiedono di fare. Il 10 marzo del 1977 Polanski sceglie Samantha per una seconda seduta e le chiede della sua vita sessuale. Mi chiedeva, hai un ragazzo? Io risposi di sì. E poi mi chiese se ci facevo anche del sesso. Io pensai, oddio, questo non mi piace. Polanski e Samantha si recano alla villa di Jack Nicholson per scattare altre foto. L'attore è fuori città. Credo che fu dopo lo champagne che mi chiese nuovamente di posare in topless. E poi facemmo sesso. Quando torna a casa, Samantha telefona al suo ragazzo e gli racconta tutto. La madre la sente e chiama subito la polizia. Non mi ha mai fatto del male e non mi ha forzata o costretta in nessun modo. Io forse ho solo cercato di fare in modo che finisse presto. Il regista 43enne viene arrestato con l'accusa di somministrazione di droghe e violenza sessuale ai danni di un minore. Polanski accetta di dichiararsi colpevole per un'accusa meno grave, rapporti sessuali illegittimi con un minore. Prima dell'udienza definitiva, Polanski deve rimanere in osservazione psichiatrica per 90 giorni alla prigione statale di Chino. Il giudice Lawrence Rittenberg pospone l'esame per permettere a Polanski di lasciare il paese e di lavorare ad un nuovo film. Ma quando Rittenberg vede una foto del regista con altre donne, gli ordina di tornare negli Stati Uniti. Polanski passa 42 giorni in carcere e viene rilasciato con la condizionale. Sebbene il suo avvocato abbia raggiunto un accordo col procuratore distrettuale, Rittenberg si fa di nuovo avanti e minaccia di condannarlo ad altri giorni in carcere e all'espulsione dal paese. Il 31 gennaio del 1978, un giorno prima della sentenza, Roman scappa a Parigi. Victor Lowndes, ex dirigente di Playboy. Quando pensi alla vita di Roman, capisci perché abbia preferito scappare piuttosto che rischiare di essere condannato ingiustamente. Roman Polanski si ritrova così in esilio senza alcuna certezza che potrà mai più vivere o lavorare negli Stati Uniti. A 44 anni, Roman Polanski è un fuggitivo costretto a rimanere lontano dagli Stati Uniti. Si stabilisce in Francia e torna all'unica costante della sua vita, il lavoro. 10 anni prima, Sharon Tate l'aveva incoraggiato a fare un film sul romanzo ottocentesco di Thomas Hardy, Tess dei D'Urberville. Decide così di esaudire il suo sogno e chiama la sua ex amante e protetta, Nastassia Kinski, ora 17enne, ad interpretare la tragica eroina abusata da un uomo più vecchio. Timothy Barrill, produttore del film Tess. Un pomeriggio sentii un'auto inchiodare davanti casa e parcheggiare in divieto di sosta. Due gentiluomini in abiti comuni uscirono dall'auto, suonarono il campanello e chiesero «E qui Roman Polanski?» Mi assicurarono che se fosse venuto nel Regno Unito l'avrebbero subito ammanettato e rispedito in America. Polanski è quindi costretto a ricreare la campagna inglese nella Francia del Nord, mandando alle stelle i costi di produzione. Ma il suo perfezionismo ha la meglio sulle difficoltà. Il film debuttò a New York. Andai anch'io in America e ricordo che la fila di persone faceva il giro dell'isolato intorno al cinema. Fu un trionfo. Roman è molto gratificato dal successo del film. Ha mantenuto la promessa fino in fondo, dedicando il film a Sharon. Nel 1980 Tess riceve 6 nomination agli Oscar, vincendone 3. Polanski viene nominato come miglior regista, ma verrebbe arrestato se provasse ad entrare negli Stati Uniti. A causa dello scandalo, ottenere l'appoggio di Hollywood per progetti ad alto budget si rivela molto difficile. Invece, Polanski ritorna al teatro, grazie al quale trionfa in Europa, interpretando Mozart in Amadeus. Roman ha da tempo conciliato in via amichevole la causa civile con Samantha Gayle Gaimer, ma la causa penale rimane ancora in piedi. Nel 1985 Roman inizia a vedersi con Emmanuelle Seigneur, un'attrice francese di 19 anni. Per la prima volta dalla morte di Sharon, è deciso ad iniziare una relazione importante. 3 anni dopo Polanski riesce ad assicurarsi un piccolo budget per un film da girare a Parigi e chiama Emmanuelle ad interpretare Frantic. Nel 1989, finite le riprese del thriller hitchcockiano, i due decidono di sposarsi. Nel 1992 la coppia lavora nuovamente insieme in uno sfrontato dramma erotico, condito da una buona dose di humor nero. Sebbene acclamati dalla critica, sia Luna di Fiele che il dramma psicologico del 1994, La morte e la fanciulla, falliscono pesantemente ai botteghini americani. Il grande regista torna trionfalmente al cinema con Il pianista nel 2002. È un film basato sulle memorie di un famoso musicista ebreo-polacco che riesce a sfuggire alla deportazione verso i campi di sterminio nazisti e sopravvive durante la guerra nascondendosi tra le macerie di Varsavia. Un altro lavoro quindi in cui affiorano elementi della vita di Roman. Adrian Brody conquista l'Oscar come miglior attore protagonista e Polanski stesso riesce finalmente a vincere l'ambito premio come miglior regista. Da Rosemary's Baby a Chinatown a Il pianista c'è sempre stata una strettissima relazione tra i film e le tragedie da lui vissute e forse nessuno è mai riuscito a raccontare così bene la storia della propria vita. Prima di chiudere vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domani alle 12.25 con il titolo Roman Polanski. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.